Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Siamo ad Antiochia di Pisidia, per così dire. Capitolo 3, capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal 42 al 52. Così è scritto, Atti degli Apostoli, dunque, capitolo 13, dal versetto 42. Or mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la raunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: era necessario che a voi, per i primi, si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, e la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono le donne pie, ragguardevoli e i principali uomini della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro loro, se ne vennero ad Iconio e i discepoli erano pieni di allegrezza e di Spirito Santo. Quindi siamo ad Antiochia di Pisidia e gli apostoli Paolo e Barnaba appunto erano giunti nella sinagoga di quella città. Infatti dice: recatesi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere e dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi l'apostolo Paolo poi si alzò e predicò. Che cos'è che predicò l'apostolo Paolo? Quello a cui era stato chiamato a predicare. L'Evangelo, che è la parola di Dio, vivente e permanente, la buona novella che Gesù è il Cristo o Messia, del quale parlarono ab antico i profeti. Questo è quello che annunziò l'apostolo Paolo in quella circostanza, in quella sinagoga. Ebbene, mentre uscivano dalla sinagoga, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. Perché voi sapete che gli ebrei si radunano il sabato nelle loro sinagoghe per leggere la legge, i salmi, i profeti, per recitare le loro preghiere. Il giorno del sabato è un giorno molto importante, peraltro è il giorno durante il quale loro si astengono dal lavoro per comandamento di Dio, perché loro sono sotto la legge, osservano la legge di Mosè. E durante appunto il sabato c'è questa, diciamo, importante riunione che viene tenuta nella sinagoga, a cui partecipano gli ebrei ed anche i loro proseliti, se la sinagoga ha dei proseliti. Ebbene, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. Allora, dopo che la raunanza si fu sciolta, la scrittura dice che molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba. Perché li seguirono? Si unirono a loro perché avevano creduto nell'Evangelo, credettero nell'Evangelo. E infatti è per questo che Paolo e Barnaba, la scrittura dice, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il fatto dunque che, parlando Paolo e Barnaba esortarono quei giudei e quei proseliti giudei a perseverare nella grazia di Dio, significa che avevano creduto nell'Evangelo della grazia e quindi erano ora sotto la grazia, perché voi sapete che fino a che l'uomo non si ravvede, non crede nell'Evangelo della grazia di Dio, è sotto il peccato. Invece dal momento in cui egli si ravvede, crede nell'Evangelo, egli è sotto la grazia di Dio, per cui il peccato non lo signoreggia più. Il peccato non signoreggia più i credenti, cioè coloro che credono nell'Evangelo. Coloro che credono nell'Evangelo sono signoreggiati dalla grazia di Dio, che è l'immeritato favore di Dio. E in questa grazia, appunto, che è la grazia di Dio, noi siamo chiamati a perseverare. E dunque gli apostoli Paolo e Barnaba esortarono quei credenti a perseverare nella grazia di Dio. Ora, che cosa avvenne il sabato seguente? Dice: quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Quindi il fatto che quasi tutta la città si radunò per udire l'Evangelo, cosa significa? Significa che c'erano anche i gentili, cioè coloro che non erano ebrei di nascita. A questo punto Luca, perché è l'autore del libro degli Atti, sapete che Luca è il medico di letto, peraltro collaboratore dell'apostolo Paolo, dice: a questo punto è scritto così, è Luca che scrive: ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Vedete dunque l'invidia di questi giudei nei confronti di Paolo e Barnaba li portò appunto a bestemmiare e a contraddire le cose dette da Paolo. Paolo, vi ricordo, come è scritto in un posto, era il primo a parlare. Era il primo a parlare tra lui e Barnaba, era il primo a parlare. Ora, gli apostoli ricevettero una dura opposizione da parte di quei giudei, che notate come la scrittura dice: bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Naturalmente qua, per bestemmiare, è chiaro, loro bestemmiavano il nome di Gesù, non il nome di Dio. Attenzione, questi giudei bestemmiavano il nome di Gesù, il Cristo, e contraddicevano le cose dette da Paolo. Quindi che cos'è che contraddicevano? Contraddicevano l'Evangelo. Perché? Perché Paolo annunziava l'Evangelo citando le scritture, dimostrando appunto per le scritture che Gesù di Nazareth era il Cristo o Messia. Infatti, quando lui annunziava l'Evangelo, cosa diceva? Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e poi apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Quindi l'apostolo Paolo traeva i suoi ragionamenti quando si recava nelle sinagoghe, quando si trovava in mezzo agli ebrei, traeva i suoi ragionamenti dalle scritture per annunziare l'Evangelo, appunto, che era stato promesso nelle scritture. Ora, qui c'erano anche gentili di nascita che ascoltavano la proclamazione della buona novella. Allora, vedendo questa forte opposizione, la scrittura dice: ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Dunque, davanti all'opposizione dei giudei, gli apostoli ammonirono quei giudei, dicendo loro che era necessario che a loro per primi si annunciasse la parola di Dio. Infatti è proprio così. Quando venne Gesù e Gesù mandò i suoi apostoli, i dodici, a predicare il regno di Dio e a sanare a sanare gli infermi, li mandò ai giudei. Come dice infatti Matteo, dice così, capitolo 10, è scritto che Gesù disse loro: non andate fra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi, per prima, l'Evangelo, la parola del regno, fu annunziata ai giudei. Poi, in un secondo momento, il Signore fece sì che l'Evangelo fosse annunziato anche ai gentili. C'è un ordine praticamente stabilito da Dio anche nella predicazione dell'Evangelo. Prima ai giudei, poi ai gentili. Questo è l'ordine che Dio aveva stabilito e che poi ha mandato ad effetto. Ora, quindi era necessario che a voi per i primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Quindi, a questo punto, gli apostoli si volsero ai gentili e, badate bene, si volsero ai gentili per comandamento del Signore, ubbidendo quindi ad un preciso comandamento del Signore. Vorrei farvi notare in queste parole che gli apostoli dissero a quei giudei ribelli, vorrei farvi notare questa espressione: non vi giudicate degni della vita eterna. Ora, voi dovete sapere che i giudei di nascita pensano di meritarsi la vita eterna osservando la legge di Mosè. Ossia, pensano di guadagnarsela mediante le opere della legge, insomma, per meriti. Ora, che cos'è che annunziavano invece gli apostoli? Annunziavano che la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù e dunque che si riceve per fede. Infatti è scritto: chi crede ha vita eterna. E allora che cosa accadeva quando gli apostoli annunziavano, la buona novella ai giudei? Che i giudei rimanevano scandalizzati dinanzi a quelle affermazioni che facevano gli apostoli in merito alla fede. Perché? Perché i giudei ritenevano appunto che era osservando la legge di Mosè che potevano essere salvati, giustificati ed ottenere la vita eterna. Allora, che cosa avveniva? Loro non si giudicavano degni della vita eterna respingendo che cosa? Respingendo l'Evangelo. Perché la vita eterna si ottiene credendo nell'Evangelo. E loro, rigettando la parola di Dio, non si giudicavano degni della vita eterna. Ancora oggi avviene la stessa cosa. Molte persone, rigettando l'Evangelo della grazia, non si giudicano degni della vita eterna. È così. Infatti, molti rigettano l'Evangelo perché? Perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. L'Evangelo è centrato sulla grazia, sull'immeritato favore di Dio. Ed è credendo nell'Evangelo che si ottiene la vita eterna, la salvezza, la giustificazione, la riconciliazione, il perdono dei peccati. Per cui è ovvio che coloro che pensano di ottenere tutto ciò mediante le loro opere, è chiaro che rigettano l'Evangelo. Ancora oggi avviene proprio questo, cioè non c'è niente di nuovo in quello che sta succedendo per tutto il mondo. Molti appunto rigettano l'Evangelo perché pensano di potersi guadagnare con le loro opere la vita eterna. Quindi i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Ora, qui non c'è scritto che tutti quelli che udirono l'Evangelo credettero. Notate, notate attentamente questa espressione, questo versetto biblico. Perché questo versetto biblico, se per noi è una gioia, per noi che crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio, è una gioia leggerlo, è una gioia meditarlo, è una gioia custodirlo in petto, sappiate che è una sorta di incubo per coloro che predicano il cosiddetto libero arbitrio, cioè quella falsa dottrina secondo cui l'uomo il destino se lo crea da sé, che viene insegnata da diverse denominazioni evangeliche. Allora la scrittura dice non che tutti quelli che udirono l'Evangelo credettero, ma tutti quelli che erano ordinati a vita eterna. Che espressione! È l'unica volta in tutta la Bibbia, o comunque nel Nuovo Testamento, che questa espressione viene usata. Dio ha voluto che Luca, per lo Spirito, scrivesse ciò. Ora, ordinati a vita eterna, solamente coloro che erano ordinati a vita eterna credettero. Allora, come vi ho detto, per ricevere la vita eterna bisogna credere. Bisogna credere, perché Gesù ha detto chi crede ha vita eterna. Ma chi sono coloro che credono? Non tutti coloro che ascoltano l'Evangelo, ma tutti coloro che sono ordinati a vita eterna. In sostanza, costoro sono coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Costoro sono coloro che sono stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo. Sono loro coloro che sono ordinati a vita eterna. Notate, ordinati, quindi stabiliti a vita eterna. Da chi ordinati? Da chi? Da qualche, facciamo un esempio, da Paolo e Barnaba? Costoro furono ordinati da Paolo e Barnaba a vita eterna? No, da chi furono ordinati? Dalla chiesa, dalla quale provenivano Paolo e Barnaba? No, nemmeno. Furono ordinati a vita eterna da Dio. Considerate che espressione, ordinati a vita eterna. Praticamente costoro erano stati predestinati da Dio a ricevere la vita eterna, che è il dono di Dio in Cristo Gesù. E siccome che per ricevere la vita eterna bisogna credere nel Signore Gesù Cristo, Dio dette a costoro di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. Fu Dio a dargli di credere, fu Dio a dargli la fede affinché credessero e ottenessero così, mediante la fede, la vita eterna. Ora, quello che avvenne ad Antiochia di Pisidia è sempre avvenuto nella storia della Chiesa fino a questo preciso momento e continuerà ad accadere fino a quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, perché noi sappiamo che l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, a tutte le genti, e allora verrà la fine. Ebbene, fino a che l'Evangelo sarà predicato, accadrà che tutti coloro che sono ordinati a vita eterna crederanno. Noi abbiamo creduto nell'Evangelo, infatti, perché? Perché siamo ordinati a vita eterna. Non perché eravamo migliori degli altri, non perché meritevamo ciò, no, perché siamo ordinati a vita eterna da Dio, per la sua grazia, secondo il beneplacito della sua volontà. Quindi ogni merito, ogni vanto è escluso nella maniera più totale. Noi ci gloriamo nel Signore, in Cristo Gesù, perché in Lui abbiamo ogni cosa pienamente, per la grazia di Dio. Noi meritavamo di andare in perdizione. Io meritavo di andare in perdizione. Io ero un insensato, malvagio, stolto, non meritavo nulla di tutto quello che il Signore mi ha dato. Io meritavo di andare in perdizione. Ma il Signore mi aveva ordinato a vita eterna. Io non lo sapevo, naturalmente. E quindi, quando giunse il tempo da Lui stabilito, io credetti nel suo figliolo, Gesù Cristo, per ottenere la vita eterna. Infatti, dal preciso momento in cui ho creduto nel Signore Gesù Cristo, ho avuto la vita eterna e ce l'ho da quel momento praticamente, perché chi crede ha vita eterna. La vita eterna quindi la ricevono coloro, e la ricevono e quindi ce l'hanno coloro che sono ordinati a vita eterna. Coloro che non sono ordinati a vita eterna non credono, e non credendo non hanno la vita eterna. Sì, possono parlare della vita eterna, hanno il pensiero dell'eternità nel loro cuore, in loro, perché gliel'ha messo il Dio. Ma una cosa è avere il pensiero dell'eternità dentro, ma altra cosa è avere la vita eterna dimorante in noi. Sono due cose completamente diverse. Molti parlano dell'eternità, l'eternità. Perché parlano dell'eternità pur non conoscendo Dio? Perché hanno il pensiero dell'eternità. Quanti poeti, quanti filosofi parlano dell'eternità, però non hanno la vita eterna. Non hanno la vita eterna perché non sono dei credenti. Allora, coloro che sono ordinati a vita eterna credono, e credendo hanno la vita eterna, possono dire ho la vita eterna. Quindi coloro che sono ordinati a vita eterna non li sentirete mai dire: io mi sto guadagnando la vita eterna, sto facendo del mio meglio per guadagnarmi la vita eterna. Non vi diranno mai coloro che sono ordinati a vita eterna e quindi sono dei veri credenti, non vi diranno mai: ogni volta che ci inginocchiamo in preghiera ci appropriamo di un pezzo di vita eterna. Non ve lo diranno mai. Questo è un pensiero che non esiste nella mente di coloro che sono ordinati a vita eterna. Non esiste. È impossibile che essi lo dicano. Impossibile. Impossibile. Perché chi crede nel figliolo di Dio ha la vita eterna, che è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è fondamentale ribadirlo, perché ci sono alcuni che sono usciti dal nostro mezzo, appunto, che insegnano che ogni volta che loro si inginocchiano in preghiera si appropriano di un pezzo di vita eterna. Non sono dei nostri. Questi non sono ordinati a vita eterna. Infatti non hanno il linguaggio dei credenti. Sapete, noi li riconosciamo. Li riconosciamo dal frutto della loro bocca, da quello che esce dalla loro bocca, gli alberi, perché gli alberi si conoscono dal loro frutto. E quando da una bocca esce una tale dichiarazione, vuol dire che esce da un cuore malvagio, incredulo, incredulo, ma per forza di cose. E quante volte ci siamo trovati a parlare con cattolici romani, ossia con mariani, che ci hanno detto: no, ma io la vita eterna non la possiedo, non sono così presuntuoso, non posso dirlo, io sto facendo di tutto per guadagnarmela. Non credono, per questo parlano in questa maniera, mentre invece coloro che credono dicono: noi sappiamo di avere la vita eterna, perché crediamo nel nome del figliolo di Dio, in colui che è la vita eterna, la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Per cui chi ha il figliolo di Dio ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. Può parlare di vita eterna, sì, ma ti può pure citare versetti della Bibbia. Sapete quanti teologi papisti i quali non sono credenti, ma sapete quanti parlano di vita eterna e non hanno la vita eterna? Ma sapete quante persone non credenti citano le scritture che parlano della vita eterna ma non hanno la vita eterna? E così anche tanti cosiddetti evangelici parlano di vita eterna ma non hanno la vita eterna. Perché? Perché non sono ordinati a vita eterna. Quindi coloro che sono ordinati a vita eterna credono e quindi hanno la vita eterna. D'altronde la scrittura dice che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Capite? Questo è molto importante. Questo è fondamentale per capire perché noi siamo sicuri di avere la vita eterna, perché siamo ordinati a vita eterna. Capite? Quindi non vi lasciate ingannare da coloro che in una maniera o nell'altra vi fanno credere che noi non abbiamo ancora la vita eterna. Come non abbiamo ancora la vita eterna? Ma se abbiamo Cristo Gesù, il Figlio di Dio, colui che è la vita eterna e il vero Dio, come facciamo a dire che non abbiamo la vita eterna? Cioè dobbiamo guadagnare. Ma quale guadagnare? Tu che pensi di guadagnarti la vita eterna? Tu andrai all'inferno. Tu là andrai, sì sì. Proprio là andrai, tu che pensi, che credi di appropriarti di un pezzo di vita eterna ogni volta che ti inginocchi in preghiera. Tu te ne andrai all'inferno, diritto diritto proprio, guarda. Non importa quanto tu possa citare le scritture, ma proprio non importa proprio niente. Da quel cuore malvagio che tu hai, quelle parole malvagie escono. E noi ti riconosciamo, figlio del diavolo, perché proprio parli come un figlio del diavolo. E non ci sbagliamo in questo giudizio, perché Gesù l'ha detto: l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro reca fuori cose malvagie. L'albero cattivo si riconosce, porta frutto cattivo, si riconosce dal suo frutto come l'albero buono, e quelle parole sono frutto cattivo, malvagio, parole che appunto escono da un cuore malvagio. Quindi, fratelli, state attenti, guardatevi dai malvagi, dagli impostori che si presentano come fratelli, ma fratelli in Cristo non sono, non sono dei nostri. Questi non sono ordinati a vita eterna, No, non sono ordinati a vita, non possono esserlo, non possono esserlo, perché coloro che sono ordinati a vita eterna hanno la vita eterna. Che meraviglia, fratelli nel Signore, avere la vita eterna dimorante in noi stessi. Vi rendete conto cosa significa avere la vita eterna dimorante in noi stessi? È qualcosa di meraviglioso. È il dono di Dio, che Dio ci ha dato nel suo figliolo Gesù Cristo. Infatti in Cristo Gesù noi abbiamo tutto pienamente, quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Ora, se è scritto che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, vuol dire che il credere nell'Evangelo è riservato non a tutti coloro che ascoltano l'Evangelo, ma solo una parte. Questa parte, appunto, sono quelli ordinati a vita eterna dal Signore. Quindi non è che dipende dal predicatore, da chi predica l'Evangelo, quanti crederanno. Un predicatore può pure predicare come predicava l'Apostolo Paolo, o come predicava Apollo, o Barnaba, o Pietro, fratelli nel Signore. La predica può essere la predica più efficace che possa esserci, usiamo questa terminologia un po' per per spiegare il concetto che voglio appunto trasmettervi. Ma fratelli, se chi ascolta non è ordinato a vita eterna, non crederà nella parola di verità, cioè nell'Evangelo. Perché il Signore dà di credere nell'Evangelo solo a coloro che sono ordinati a vita eterna. Quindi non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. D'altronde il Signore ha detto: io farò grazia a chi vorrò far grazia. A chi vuole fare grazia il Signore? A quelli che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché il Signore ha voluto farci grazia, fratelli, perché noi eravamo e siamo ordinati a vita eterna. È meraviglioso sapere questo. E naturalmente è meraviglioso saperlo, ma d'altronde è triste anche constatare quanti nemici abbia il proponimento delle elezioni di Dio, perché è di questo che vi sto parlando, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E chi è colui che chiama? È l'Iddio vivente e vero. È colui che manda taluni a predicare l'Evangelo dà di credere nell'Evangelo solamente a quelli che sono da lui ordinati a vita eterna. Quindi dobbiamo ribadire che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, nella maniera più assoluta. Non è l'uomo che si crea il suo destino. No, nella maniera più assoluta. Quando sentite dire tutti possono credere, non è vero che tutti possono credere. Molti, infatti, non credono perché non possono credere. Ma cosa stai dicendo? Come non possono credere? Non possono credere, come appunto è scritto. Capitolo 12 di Giovanni, è scritto quanto segue: queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato, e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, non intendano col cuore e non si convertano, e io non li sani. Ora, il figliolo di Dio era sulla terra in quel momento. Egli compiva le opere che il padre suo gli aveva ordinato di compiere. Erano opere, segni, prodigi, opere potenti. Tutti vedevano quello che egli faceva. Quelle opere testimoniavano che il Padre lo aveva mandato. Quelle opere testimoniavano che lui non era venuto da sé, ma era venuto per volontà di Dio nel mondo. Quelle opere testimoniavano che lui era il Messia. Eppure, cosa c'è scritto? Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui. Ora, qualcuno dirà: ma com'è possibile? Vedevano i ciechi recuperare la vista, i sordi sentire, i muti parlare, i morti resuscitare, gli indemoniati liberati, i lebbrosi mondati, gli zoppi camminare. Li vedevano queste cose, eppure non credevano in lui. Perché non credevano in lui? Perché non potevano credere in lui. Lo vedete? Quanto sono bugiardi dunque coloro che dicono tutti potete credere? No, nella maniera più assoluta. Tutti possono credere, nella maniera più assoluta non è così. Perché appunto vedete quei giudei, la maggioranza peraltro dei giudei, perché solo un residuo poi credette, non potevano credere. E c'è una ragione ben precisa. Perché si dovevano adempiere le parole del profeta Isaia, che erano parole di Dio. Egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori. Egli chi? Dio. Ecco perché non potevano credere. Ecco perché non potevano credere che Gesù era il Messia. Perché Dio aveva cercato gli occhi loro e aveva indurato i loro cuori. Sì, fratelli, È proprio così. Molti non accettano questo, pensano che appunto noi stiamo annunziando un Dio diverso da quello di cui parla la Sacra Scrittura, ma costoro erano grandemente, perché non conoscono le Scritture, nemmeno la potenza di Dio. Questi non potevano credere, per la ragione detta da Isaia. Allora, chi sono coloro che possono credere e che crederanno? Naturalmente, sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Quindi, quando preghiamo, quando meditiamo, ricordiamoci sempre questo: noi abbiamo potuto credere perché Dio ci ha dato di credere. Ci ha dato di credere. Perché ci ha dato di credere? Perché siamo ordinati a vita eterna. Quindi, tutto per grazia, niente per opere, affinché nessuno si glori. Infatti, noi non ci gloriamo, noi non ci vantiamo nel cospetto di Dio, perché riconosciamo di essere polvere e cenere. Riconosciamo che è stato il Dio che ha aperto il nostro cuore per renderci attenti alla predicazione dell'Evangelo. È Dio che ha aperto poi la nostra mente per intendere le Scritture. È Dio, fratelli nel Signore, che ci ha dato la fede. È Dio che ci ha dato il ravvedimento, il cambiamento di mente. Ce l'ha dato il Signore. Ma che cos'è che noi abbiamo, che non abbiamo ricevuto dal Signore? Abbiamo ricevuto tutto dal Signore. E quindi vedete, noi avete capito perché abbiamo creduto, perché abbiamo potuto credere, perché Dio ci ha aperto il cuore, dandoci la fede. La fede degli eletti di Dio, perché la fede che abbiamo è la fede degli eletti, non è una fede così, è la fede degli eletti di Dio, che c'hanno solo gli eletti di Dio. E quindi è una fede preziosa, quando invece consideriamo che molti ascoltano, ma non credono, non possono credere. Perché Dio ha ciecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori. Questo valeva naturalmente in quel preciso momento per molti giudei, ma oggi guardate che queste stesse parole vanno applicate a molti, molti, molti gentili, non solo a molti ebrei, ma anche a molti gentili. Queste sono parole che detestano coloro che credono nella falsa dottrina del libero arbitrio. Perché queste parole proprio demoliscono proprio alla base la loro falsa dottrina, perché fa comprendere che il credere dipende da Dio, il credere nell'Evangelo. Se costoro non potevano credere perché Dio aveva accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, è evidente questo. Quindi è sempre bene ribadirlo, fratelli nel Signore, che noi crediamo perché siamo ordinati a vita eterna. Voglio ricordare a tale proposito un dialogo che Gesù ebbe con dei giudei nel tempio di Gerusalemme, capitolo 10 di Giovanni, capitolo 10 dal versetto 22. Ascoltate cosa dice Giovanni. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fo nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. Allora notate come i giudei dicono questa domanda molto semplice a Gesù: se tu sei il Cristo, o comunque prima gli fece la domanda: fino a quando terrai sospeso l'animo nostro. E poi gli disse: se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Cioè, volevano sapere se Gesù era il Cristo, il Messia. Gesù come gli ha risposto? Ve l'ho detto e non lo credete. Quindi Gesù annunziava di essere il Cristo, il Messia. Però vedete, quei giudei non credevano in lui, non credevano che lui fosse il Messia. Eppure le opere che Gesù faceva nel nome del Padre suo testimoniavano di lui. Ma loro non credevano. Perché? Perché? C'è scritto perché. Gliel'ha detto Gesù. Ascoltate, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Questo significa, appunto, che solamente coloro che sono pecore del Signore credono. In altre parole, coloro che sono ordinati a vita eterna. Costoro non erano ordinati a vita eterna, quindi non potevano credere, non credevano, non erano delle pecore del Signore. Perché vedete, le pecore del Signore ascoltano la voce del Signore, lo seguono, la riconoscono la voce del pastore e lo seguono. E cosa dice la scrittura? Gesù dice: io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno li rapirà dalla mia mano. Infatti, tutti coloro che sono pecore del Signore sanno benissimo che quando giacevano nelle tenebre, quando camminavano nelle tenebre, sentivano un'attrazione, diciamo, inspiegabile verso Gesù. In una maniera o nell'altra erano attirati a Gesù, alle sue parole. Questo perché? Perché il Padre li attirava a Gesù. Infatti il Padre attira coloro, diciamo, che sono le pecore del Signore, le attira a Gesù. Ricordate infatti Gesù cosa disse? Ognuno, dice così Gesù, ascoltate quello che ha detto Gesù, dice così: ognuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Ora, chi sono coloro che il Padre attira a Gesù? Sono le pecore del Signore. Sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché non tutti vanno a Gesù. Perché non tutti sono attirati dal Padre. Perché? Perché non tutti gli uomini sono pecore del Signore. Non tutti gli uomini sono ordinati a vita eterna. Ma solo una parte. Vedete dunque, emerge, diciamo, da tutto ciò la meravigliosa grazia di Dio, che non mi stancherò mai di esaltare, di celebrare, magnificare anche in faccia ai miei tanti nemici, che anche se vedo, che è come se li vedessi, perché so che mi ascoltano. Per quello le cose gliele dico in faccia a questi malvagi impostori, perché so che mi ascoltano. Come qualcuno dirà: ma veramente i tuoi nemici ti ascoltano? Ma come? Sono i miei più fedeli ascoltatori da questo punto di vista. Non si perdono nemmeno una virgola di quello che io scrivo e di quello che io predico. D'altronde sapete che i nemici di Gesù cercavano sempre di coglierlo in qualche... nelle sue parole, no? Gli tendevano dei lacci, capite? Perché questi qua ascoltano le mie predicazioni perché mi vogliono tendere dei lacci, perché sperano che io, appunto, fallisca, dica una cosa contro la verità. Ecco perché mi ascoltano e mi leggono, no? Perché sono malvagi, un po' come quelli che studiano la Bibbia per trovare nella Bibbia un, diciamo, supporto alle loro eresie distruttive. Qualcuno dirà: ma com'è possibile? Ma certo, è così. I mormoni, i testimoni di Geova, i mariani, perché studiano la Bibbia? Per cercare nella Bibbia l'appoggio alle loro falsità e andare quindi contro la verità. Ma ormai le cose, ormai le sanno le persone intelligenti. Quindi vi stavo dicendo, appunto, vedete allora chi sono coloro che il Padre attira, a cui è dato dal Padre di andare a Gesù? Sono coloro che sono, appunto, del Padre e che il Padre dona al figliolo. Sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché non tutti vanno a Gesù per avere la vita eterna. Non tutti, perché non tutti sono attirati dal Padre. Ora c'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia. Dio è giusto. Dio fa quello che vuole. Tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, fa tutto ciò che gli piace. E non c'è nessuno che può dirgli, ma hai fatto male, no, ma guarda che in questa circostanza avresti dovuto... E chi può dire una cosa, queste cose al Signore? Dio è Dio, non è un uomo. Quindi la sua volontà è sovrana. E noi appunto siamo grati al Signore di essere appunto oggetto del suo favore immeritato. Che dire, voi mi conoscete, io predico da molti anni, ho sempre esaltato la grazia di Dio e riconosco che per la grazia di Dio io sono quello che sono. E anche tu, fratello nel Signore, è per la grazia di Dio che sei quello che sei. Ricordatelo sempre questo. Non sei quello che sei per i tuoi meriti? O per le tue opere, no, sei quello che sei per la grazia di Dio. E dunque esaltiamo sempre la grazia di Dio, che veramente noi abbiamo ricevuto, lo diciamo perché la sua grazia è sopra noi, la sua grazia è con noi. E si vede. Lo vedono naturalmente quelli che sono sotto la grazia, quelli che sono sotto il peccato non lo vedono. Ci fanno la guerra, ci odiano, ci disprezzano, ci calunniano. L'altronde sono sotto, costoro sono sotto il peccato. Non essendo sotto la grazia, non possono amare quelli che sono sotto la grazia. Quindi ho voluto, diciamo, fare questa predicazione per ricordarvi cose che voi già sapete, ma è utile che io ve le ricordi, perché sapete, anche gli apostoli ricordavano ai santi cose che essi sapevano. Ma fino a che appunto dimorerò in questa tenda, io veramente mi studierò di ricordarvi queste cose che sono utili. Per mezzo delle quali ci fortifichiamo nella grazia che è in Cristo Gesù e per mezzo delle quali ci sentiamo sempre riconoscenti verso l'Iddio d'ogni grazia. Ecco com'è chiamato Dio, l'Iddio d'ogni grazia. Il nostro Dio è l'Iddio d'ogni grazia, ricordalo, che ha voluto farci grazia. Quindi quando tu dici sono un credente in Cristo Gesù, ricordati che tu sei un credente in Cristo Gesù perché sei ordinato a vita eterna. E chi ti ha ordinato a vita eterna? Il Dio. Non è che ti sei auto-ordinato a vita eterna, no. No, noi siamo stati ordinati a vita eterna da Dio. Quindi coloro che si scandalizzano quando ci sentono parlare del proponimento dell'elezione di Dio, manifestano la loro arroganza la loro ignoranza. Arroganza e ignoranza. Voi infatti studiateli bene, vi accorgerete che sono arroganti e ignoranti quelli che appunto rigettano il proponimento dell'elezione di Dio. Quindi noi continueremo a celebrare la parola di Dio, continueremo a celebrare la grazia di Dio, continueremo a celebrare la sua volontà. Il Dio è stato buono verso di noi ed è tuttora buono verso di noi e continuerà a farci del bene. Perseveriamo nella grazia di Dio. Quindi vi rivolgo la stessa esortazione che Paolo e Barnaba rivolsero a quei giudei credenti: perseverate nella grazia di Dio e state attenti a coloro che cercano in maniera subdola di farvi scadere dalla grazia di Dio, predicandovi la legge delle opere, predicandovi non la giustizia di Dio che si basa sulla fede, ma la giustizia propria, coloro che vi predicano un altro Vangelo. Questi sono tutte persone che vogliono farvi scadere dalla grazia, mentre voi dovete perseverare nella grazia di Dio. Non fatevi sedurre da vani ragionamenti, esaminate attentamente quello che leggete e quello che ascoltate, perché ricordatevi, talvolta, anzi spesso, ve lo dico per esperienza, le eresie distruttive si nascondono in pochissime righe. In pochissime righe! Io ho studiato eresie distruttive di ogni genere, ma di ogni genere, E vi posso dire che veramente si nascondono talvolta, magari ci fanno un grande discorso questi falsi, poi però ecco che in due righe riescono a annunciare un altro Vangelo, un altro Gesù, riescono ad annullare la grazia di Dio. È per quello che bisogna stare molto attenti. Non sono errori, diciamo, di distrazione, ricordatevelo. No, sono proprio eresie distruttive che vengono inserite in un lungo discorso, peraltro, per uccidere il lettore o l'ascoltatore. Perché poi succede che appunto coloro che rimangono vittime di questi impostori si dimenticano tutto il discorso tranne proprio quella frase eretica che assimilano e praticamente gli produce la morte. Guardate che il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia. E guardate che i figli del serpente, ossia i figlioli del diavolo che si sono introdotti in mezzo alle chiese, anche loro seducono con la loro astuzia. Ecco perché vi dico, state attenti, perché questi sono astuti. Questi sono astuti, approfittano dell'ignoranza profonda che c'è in ambito evangelico per somministrare il loro veleno micidiale. Sapete che per ammazzare una persona, lo dicono gli esperti, non è che ci vuole un litro di cianuro, No, non ci vuole un litro di cianuro, basta poco. Infatti questi impostori con poco uccidono, fanno scadere dalla grazia con poche parole. Poche parole, sembrano proprio paroline buttate lì così casualmente, ma no, sono messe lì dal diavolo, dal diavolo, fatte accettare appunto per portare le anime in perdizione. State molto attenti dunque al cianuro che costoro in piccolissime dosi vi mettono nei loro post, nei loro discorsi. State molto attenti. Quindi, fratelli nel Signore, vegliate e state saldi nella fede, state saldi nella verità e appunto siate sempre riconoscenti a Dio per ciò che Egli ha voluto darvi in Cristo Gesù. Quindi, per la sua grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.